Nuovamente in mostra, siamo nella splendida città bizantina di Ravenna, al Mar, e non solo, anche nella biblioteca Classense. Coconino Fest ricomincia da 3, sentiremo in che modo. Intanto da venerdì 21 a domenica 23 giugno la terza edizione del Festival del Fumetto. Esposizioni, incontri, dibattiti, musica, tanti protagonisti e prestigiosi. Ne parleremo per Coconino, la casa editrice che ben conosciamo, con Ilaria Bonaccorsi. Iniziando appunto in una visione generale di questa rassegna per quanto riguarda la città di Ravenna. Quest'anno devo dire che abbiamo addirittura due sedi, il MAR, cioè il Museo di Arte Contemporanea di Ravenna, e la Biblioteca Classense nella sua manica lunga. Quindi la prima cosa che va detta del Coconino Fest è che sono 7 mostre, 7 grandi autori, alcuni storici pilastri della casa editrice ed altri esordienti. Invece ci teniamo tantissimo, diciamo, a mettere tutti insieme, a far vedere tutto il lavoro della casa editrice, e questo poi ovviamente è accompagnato invece da incontri, presentazioni, performance serali, quindi in realtà venite e vi divertite un sacco. Ogni anno scegliamo un grande tema, quest'anno il tema portante è la libertà, cioè la parola chiave è freedom. E ogni libro portato parla di libertà di espressione, libertà di parola, libertà di rompere gabbie, barriere, confini, e quindi ci sembrava il tema fondamentale, diciamo, da esplorare quest'anno, da portare in festa quest'anno per discuterne, perché poi appunto il fumetto è un mezzo straordinario, trasversale, profondo, anche veloce per certi versi, per far arrivare alcuni contenuti importanti in questa fase, ahimè, politica e storica. I protagonisti sono dunque delle mostre, sono, vabbè, Gipi, che è in assoluto, diciamo, la nostra colonna portante, che per la prima volta espone le tavole originali di Stesi. Stesi è la sua ultima opera ed è forse una delle denunce più forti, un po' alla Gipi, se conoscete l'autore, che si può fare contro appunto tutti i limiti che i social impongono in qualche modo, o che non impongono invece alla comunicazione. Per cui lui, voi sapete, nella vita reale è nato da un episodio reale, lui è stato vittima di uno shitstorm, cioè è uscito per mesi dalle comunicazioni dei social perché ha in qualche modo, o almeno gli è stato attribuito un errore di comunicazione, per cui poi ha subito una tempesta in qualche modo di odio. E il libro è nato da questo, cioè dal dolore nel ritrovarsi, diciamo, protagonista di una non comprensione, incomprensione o tortura. E questo ci dice tanto dell'attuale modalità veloce, spesso sconnessa, dei social, che impongono i social. And goes like a fits and dizzy spells like a weather, and it blows like it knows what's going wrong, like it's clever, has a name. Oh, but the name goes unspoken. Violinista, compositore, ho portato una colonna sonora Bella Union, che all'epoca in cui seguivo queste sonorità, artisti di tale label spesso presenti all'Anabi di Ravenna. Siamo a Ravenna, quindi ho portato artisti Bella Union. Interessante è questo approfondimento sui social. Gipi, artista che conosciamo, strano, perché cito un mio esempio, sapete la mia passione per la vera pallacanestro, oramai cambiategli nome perché è un'altra cosa, però facevo critica a tale proposito e sapete com'è contraddistinto nel parlare comune cestistico il tiro da 3 punti, una bomba, no? Io ho usato questo termine, sta tirando bombe. Ecco, sono stato prima richiamato, pochi giorni dopo, in maniera totalmente in buona fede, ero all'esposizione di Oliviero Toscani a Palazzo Albergati a Bologna, ho ripreso una sua immagine di due ragazzi vicini in un atteggiamento molto intimo, con le parti intime appunto coperti da ammenicoli digitali. Subito la fotografia riprende immagini non consone al senso comune del pudore. Sarai fermato per 15 giorni, ecco, per dire il linguaggio dei social. Eppure però ci sono allo stesso modo dei contenuti che altro che quello che vi ho appena citato, questa è Acquina di Rose, ma poi non è neanche da intendere come un contenuto che va a offendere il pudore, ma figuriamoci. Però c'è chi inneggia la violenza, chi fa apologia di reato, chi mette immagini che vanno ben oltre a quelle da me descritte. È una situazione dove anche Gipi ne è stato vittima, magari in maniera decisamente più importante, visto l'importanza dell'artista stesso. E ne parlerà a partire appunto dal weekend che comprende venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno, tra le sedi di MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna, e la Biblioteca Classense. Gli artisti comunque sono diversi e procediamo in questa presentazione con Ilaria Bonaccorsi. Poi abbiamo Uzumaru Furuya. Uzumaru Furuya è uno dei sensei del manga attuale più famosi, sta smuovendo. A Lucca abbiamo avuto problemi di ordine, diciamo. Il fenomeno del manga, della lettura del manga è abbastanza misterioso per me, ma è una quota oramai che nelle case editrici, diciamo, la quota giapponese nelle case editrici di fumetto oramai è fondamentale e fondante. E lui esporrà per la prima volta le tavole del nuovo libro che pubblicherà con noi. Quindi è un'assoluta, diciamo, anteprima di ciò che è famoso per Paletoli, è famoso per opere. È un manga d'autore, è un manga bellissimo, un po' horror, un po' noir in qualche modo. Poi abbiamo protagoniste le donne, ma lo dico perché portano dei libri fondamentali, forse i più belli che ho pubblicato quest'anno, lo dico senza remore, che sono Valentine Finilé-Callet, che è questa giovane autrice francese che nel 15, dopo l'attentato di Charlie Hebdo, mentre Marine Le Pen urlava, diciamo, al ritorno della pena di morte in Francia, invocava il ritorno alla pena di morte, decide di iscriversi a un'associazione, di cominciare una perreazione, una corrispondenza epistolare con un condannato a morte nel braccio della morte in Florida, e da questa corrispondenza epistolare con Reinaldo McGirt, giovane di colore ovviamente condannato a morte, nasce un libro, nasce questo progetto. E vi assicuro, raramente ho letto, ho visto un libro così bello su un tema così importante, che mette dentro ovviamente il razzismo, la tematica del Black Lives Matter in America, l'ingiustizia della pena di morte, la violenza, diciamo, dell'istituzione del carcere. Che diventa un tema, come già abbiamo ascoltato in questi primi due segmenti, e continueremo con un'altra artista tedesca, se ho ben intuito, e avremo modo anche in questo caso di darne approfondimento. Poi riflettori puntati su Filippo Scozzari, su matite giovani e su talenti già affermati come Antonio Pronostico e Pietro Scarnera, che, se ricordate, collaborò per qualche puntata all'interno di speciali dedicati al fumetto. Saranno appunto, come vi ho detto in precedenza, in questo Coconino Fest 2024 a Ravenna. Abbiamo anche Sutenberg, invece, che parla appunto di questa, espone, diciamo, le tavole di questa compagna cuculo, che è la storia invece di una bambina nata in Germania, nella Germania dell'Est, dagli anni 60 fino invece alla caduta del muro di Berlino. Quindi anche lì l'ennesima caduta di un muro, il cambiamento della storia. Sono libri davvero casualmente importanti che hanno un filo, secondo me ce ne accorgeremo nei dibattiti. Per finire poi con Enrico Pinto, che ha pubblicato questo Lo Schermo Bianco, che è questo libro d'esordio di questo architetto che vive in, italiano che vive in Francia, ed anche lì stranamente si ventila, diciamo, l'arrivo di questa presidente sia nel libro della Fini Le Callezze, in quella di Pinto, che in altri libri che affrontano questo tema delle barriere, dei confini, dei clandestini, e quindi il tema della libertà che viene a mancare, la libertà dei diritti, la libertà di circolazione, la libertà di espressione. Tanto che il nostro festival si chiuderà con un dibattito in cui sarà ospite Civati, Giuseppe Civati, che è autore di un breve romanzo che si chiama Fine, che sarà, diciamo, che diventerà un graphic novel, lo abbiamo scelto, e che si confronterà con questo, diciamo, futuro che è già presente, che è un po' una distopia in cui appunto Venezia viene chiusa da dighe che diventano muri e da una nostra carenza, non capacità di rispondere adeguatamente a quello che sta accadendo, no? Quindi è come se il fumetto si impegni in qualche modo e guarda ad un futuro che, ahimè, è già presente. In questi libri si ventila l'arrivo di una presidente, soprattutto in Francia, e nel frattempo, ahimè, in qualche modo queste ultime europee ci hanno fatto vedere che è arrivata, cioè la Le Pen è al 33% quasi, Macron ha sciolto le camere, e sappiamo quello che accadrà, insomma, nei prossimi giorni. Quindi in qualche modo abbiamo anche i libri che hanno predetto, ahimè, un futuro che è il nostro presente, e quindi anche il fumetto si interroga in qualche modo. Jonathan Wilson, Little Spirit, anche lui visto a Lanabi. Gran bel disco, 2008. Le tematiche di attualità, di denuncia, e che purtroppo hanno anche previsto determinati aspetti. Beh, insomma, Sara al Mare, non solo Biblioteca Classense, potete consultare la mostra al Mare, Museo d'Arte della città di Ravenna, sui siti anche della Biblioteca Classense, per il programma nella città bizantina di Ravenna con il Coconino Fest, che ha diversi motivi di incontro e di approccio con il pubblico. Sì, noi abbiamo quest'anno per la prima volta due masterclass, una di Valentin Cunile-Callet il sabato mattina alle 11 ed una di Anke Pöttenberg la domenica mattina alle 11. Sono gratuite, su prenotazione c'è un numero di telefono, staranno sempre al Mar, in degli ambienti stupendi che ci hanno messo a disposizione. E sì, ogni sera ci sarà appunto performance, reading di Guido Catalano, dibattiti con Vasco Brondi, e la sera finale, la domenica sera, lo facciamo sempre, dalla prima edizione c'è questa festa in spiaggia in cui anche quest'anno ci saranno delle live performance di Furuya, di Cunile-Callet, dei nostri autori che vengono lì, e abbiamo eletto questo bagno sulla Riviera Romagnola che oramai è pieno delle opere dei nostri autori, perché dipingono ovunque, dalle serrande ai banconi del bar, e quindi oramai è diventato un bagno Coconino. E quindi sì, la chiusura è un po' lì, è una chiusura con la musica, con dei DJ set, perché poi stranamente tutti i nostri autori, compreso il mio Ratiger, che era stato il mio direttore editoriale, che adesso coordina la mia collana più sperimentale, che è Brick, sono tutti DJ, in qualche modo si dilettano, hanno la passione della musica, per dire da Gibi, che aveva il suo... Sì, è una sorta di disegnare coi dischi su, e con la musica. Da venerdì a domenica avremo questi motivi di incontro in quel di Ravenna, ne abbiamo dato una, così, una sintesi esaustiva, grazie a Ilaria Bonaccorsi. Grazie. Appuntamento a Ravenna e grazie a voi. Breakfast torna domani per salutare, dare il benvenuto all'estate, domani 21 giugno, quindi dal brano del buongiorno all'editoriale, alla sigla che sarà Summer Madness dei Kool & Gang. Appuntamento puntuale alle ore 7, Breakfast Club del venerdì, e triplo appuntamento in scena. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio la linea pubblicità e di per enciclopedico a seguire Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ci sarà il grande rock con Angela Zocco e Andrea Gozza che vi accompagnerà fino all'ora di pranzo sui 103.1. Per oggi è veramente tutto, grazie per l'attenzione, un buon giovedì e un buon ascolto dal vostro William Piana. Ciao, a domani!